Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 27 aprile, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Siete su Liberi Dentro ed Uradio, in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Sono con Antonella Cortese, buongiorno Antonella. Buongiorno a te Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. E Ignazio De Francesco, buongiorno Ignazio. Ciao, ciao a te a tutti. Allora, oggi vi racconto una storia che è una storia legata a una lettera che ha ricevuto la nostra ministra della giustizia Marta Cartabia. Traggo l'articolo da agi.it, Roma, la figlia di una detenuta malata di Covid scrive a Cartabia, perché questa figlia di questa detenuta 65enne ha ricordato la situazione gravissima in cui si trova la propria madre all'interno del carcere di Rebibbia a Roma. Scrive: mia madre ha 65 anni, è in carcere per un vizio procedurale da 3 settimane in totale isolamento. Perché in isolamento? Perché purtroppo questa signora si è ammalata di Covid e quindi già la situazione in carcere è drammatica. In più con il Covid è ancora più drammatica e si vive proprio il vero e proprio isolamento, è una cosa gravissima. Quindi questa figlia, Rossella Nitori, che ha scritto alla ministra della giustizia, ha voluto denunciare una situazione di gravissima condizione di salute anche della propria madre e anche di afflizione morale, insomma. E dice: sono 3 settimane che non respira una boccata d'aria fresca, che non alza gli occhi al cielo per vedere le nuvole, che non si fa una doccia calda. Sono 3 settimane che mia madre non incontra nessuno, è sola per 24 ore al giorno e non esce mai. Mia madre non è socialmente pericolosa. Quindi ha riferito anche i dettagli di questa vicenda giudiziaria, purtroppo finita male per un vizio procedurale. Purtroppo accadono queste cose, sono molto fastidiose, al limite dell'insopportabile per chi è detenuto in questo momento. Quindi è una lettera che apre tante domande a noi come società, come possiamo lasciare che questa tragedia per lei e altre persone detenute si compia. Do la parola a te, Antonella, perché ci parli di un artista nigeriano. Sì, Caterina, oggi viaggiamo in Nigeria, infatti, e precisamente a Lagos, la capitale economica della Nigeria e la metropoli più grande dell'Africa, oltre ad essere la quarta città più grande del mondo per popolazione. E è anche un luogo simbolo, il luogo simbolo delle lacerazioni e dei contrasti creati proprio dall'urbanizzazione selvaggia. E infatti si stima che a Lagos vivano 22 milioni di persone, ma nessuno sa veramente quanti siano, perché ogni settimana si contano 10.000 nuovi arrivi. Contadini Yoruba e Ibo lasciano i loro villaggi per inseguire il sogno di una vita migliore, e anche famiglie Hausa e Fulani fuggono da Boko Haram. Gli ultimi arrivati tirano su fragili catapecchie a ridosso delle discariche e 2/3 della popolazione di Lagos finisce a vivere nelle cosiddette shanty town, città di baracche fondamentalmente, sotto la minaccia quotidiana degli sgomberi. Infatti, negli ultimi anni almeno 40 comunità sono state sfrattate con l'uso della forza, e proprio perché vengono aperti continuamente cantieri destinati a una ristretta elite di uomini d'affari ed esponenti dell'establishment politico e finanziario. In questa realtà molto particolare, l'artista Olalekan Geyofus è un architetto nigeriano e soprattutto un artista lucido e visionario che da anni vive a New York e che ha creato un'opera enorme che si chiama Shanty Megastructures, che è realizzata con l'ausilio di software che gli hanno permesso di assemblare e rielaborare foto reali con l'ausilio appunto di immagini digitali. E l'artista immagina il Lagos nel 2050, questa metropoli futuristica assemblata con lamiere zincate, ferraglie arrugginite, groviglie di cavi, piloni, insomma una realtà veramente pazzesca, dove però i diseredati sembrano prendersi la rivincita e riconquistare quegli spazi che gli sono stati sottratti proprio da questa elite economica che li ha praticamente sfrattati. Sono immagini sicuramente fantastiche, ma anche un chiaro ammonimento. Se la forbice tra ricchi e poveri continuerà ad allargarsi, L'illusione dei cittadini facoltosi di poter vivere ancora a lungo in quartieri esclusivi e blindati svanirà. E in questo caso io lancerei una bella canzone proprio di un artista che si chiama Asha, che significa in lingua Yoruba falco, che si chiama Eyo. Looking round you see all the people making faces very cool, carrying me away far from the circles that never breaks. Hey, hey, hey. Going home, going home, where this road goes I already know, where everybody cares for one another and they take you as their sister. Ayo, ayo, ayo, ayo, where the children run around, there's laughing in the crowd, I hope it still remains the same. Ayo, something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Ayo, ayo. All locked in and ready for takeoff, so my mind could fly away. House is getting small up the way up, in my heart a sunny day, dreaming of me on stage. 5 years of age and I'm not afraid. Hey, going home, going home, where this road goes I already know, where everybody cares for one another and they take you as their brother. Ayo, ayo, ayo, ayo, where the children run around, there's laughing in the crowd, I hope it still remains the same. Ayo, something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Ayo, ayo, oh. Would you take me and embrace me as your own? Would you take me and embrace me as your own? Eccoci, bentornati su Liberi Dentro, e adesso do la parola al nostro Ignazio De Francesco, che ci sta portando un po' in viaggio la scorsa settimana, i vari viaggi in Medio Oriente, e questa settimana parliamo di carcere. E Ignazio, tra le tante persone detenute che hai incontrato, c'è una storia? Sì, grazie Caterina, direi per esempio la storia di Leila, ma ogni persona detenuta, ogni persona ha una storia, non c'è nessuno che è uguale all'altro. Ecco, che non ha storia. E la sua è la storia di un progetto migratorio fallito, una ragazza bravissima. Io ho costruito bene tutti i suoi passi, dalla Tunisia, il villaggio, la mamma vedova, il padre morto quando lei era piccolina, poi cresciuta con un fratello un po' violento, poi fatto la parrucchiera, ha deciso di venire in Italia in modo illegale, e per cui anche questo modo poi uno si espone a rischi che non prevedeva, quindi sempre meglio entrare legalmente. Comunque è arrivata col barcone, poi è andata in Sicilia, pensate che ha avuto persino una richiesta di matrimonio da un ragazzo ricco di una famiglia siciliana, benestante, un ragazzo, un volontario, si era innamorato di lei, ma la sposava senza diventare musulmano. Gli ha detto, devi prendermi così come sono. Allora lei ha telefonato alla mamma, la mamma gli disse, se mi fai una cosa così non sei più mia figlia, non sono più tua madre. Quindi lei ha obbedito a questa cosa della mamma, e poi purtroppo ha contratto un altro matrimonio con un ragazzo del suo paese che però commerciava droga, e l'ha infilata nella droga, e quindi si è dovuta fare alcuni anni di carcere, portando insieme queste due cose: da una parte la sua ricchezza di persona, dall'altra il dolore del fallimento di una migrazione da cui sperava tanto, e insieme il problema di rimettersi in piedi dopo la detenzione. Ignazio, ho una domanda, ma che fine ha fatto lei dopo tutti questi anni di carcere? Dov'è adesso? Ecco, questa è la domanda che noi tutti volontari ci facciamo sempre, perché magari frequentiamo delle persone per anni e anche ci affezioniamo, cioè l'amicizia, nascono delle amicizie con le donne, con gli uomini, poi un giorno esce e non la rivediamo più. Invece è successo che lei mi ha telefonato la sera in cui fu scarcerata perché non sapeva dove andare a dormire. Le ho trovato un posto e poi ci siamo un po' visti ancora e poi ci siamo persi di vista per molto tempo, direi l'anno scorso. Un giorno ricevo da una telefonata, era lei che mi raccontava, Ignazio, sto per partire, ho ritrovato il biglietto con il tuo numero e volevo salutarti. Ho detto, ma dove vai Lea? Dove vai? Torno in Tunisia. E quindi, diciamo, il suo progetto di migrazione verso l'Europa non era andato a buon fine, un ritorno che spesso, soprattutto per le donne, per le ragazze, è un ritorno difficile, però condito da una cosa, dice, porto con me un bambino. E quindi in questo tempo non so niente della sua storia, so che non tornava da sola, tornava in due con un figlio. E quindi chissà, se ci sente magari in streaming sul web, la saluto da questo canale. E se ci ascolta, allora le dedichiamo una canzone, sempre di Johnny Cash, un brano del 1972, For the Good Times, per i tempi migliori, dedicato a Leila e a tutte le persone che in tempi migliori usciranno e finalmente abbracceranno questa speranza della libertà. I know it's over, but life goes on. And this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow, hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you'll love me one more time. For the good times. I'll get along. You'll find another. And I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head up on my pillow, hold your warm. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Siamo con la nostra Rosanna Sirignano. Buongiorno, bentornata. Buongiorno. Abbiamo affrontato con te le ultime volte i 5 pilastri dell'Islam e oggi ci concentriamo invece su significati di lemmi, potremmo dire, no? Perché quando due persone si incontrano, usano questo saluto che è Assalamu alaikum, e di solito si risponde Wa Assalamu alaikum, oppure anche un'altra formula un po' più lunga che ci spieghi tu e ci spieghi anche che cosa significa. Beh sì, salam è una parola araba, appartiene alla cultura e alla spiritualità islamica, e quindi il saluto Assalamu alaikum, a cui si risponde Wa alaikum salam, o nella sua versione più estesa Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, che tradotto può essere tradotto in italiano con che la pace, la benedizione e la misericordia sia su tutti voi, è il saluto che lo stesso profeta dell'Islam, Muhammad, consigliava di rivolgere alle persone che si incontrava, e quindi è un saluto islamico. Così ci si saluta in Turchia, così ci si saluta fra i musulmani italiani, americani, cinesi. E la cosa interessante è che questo saluto viene sempre declinato al plurale, cioè salamu alaikum, che vuol dire che la pace sia su di voi, lo si usa anche quando si incontra una sola persona, perché proprio nella mentalità, ecco, in un cervello islamico, è che si percepisce la persona come un insieme di tante cose, ma anche legata alla propria famiglia e ai membri della propria comunità. Quindi noi siamo sempre un noi e un voi in continuazione, anche se se in realtà siamo persone poi singole. E quindi, siccome ci si augura la pace per se stessi e per le persone che si hanno intorno, come dici giustamente, perché siamo tante cose, abbiamo tante connessioni, cosa significa nella pratica vivere in pace? Beh, partiamo ecco dal significato della parola salam, che deriva da una radice, perché ecco l'arabo funziona come tutte le lingue semitiche con una base di tre consonanti che poi danno origine alle altre parole. La base della parola salam è la stessa base della parola islam, quindi s-l-m, e la radice salama, la radice quindi di questa parola, più che altro significa, analogamente alla radice ebraica shalom, da cui viene la parola shalom, che hanno proprio lo stesso identico significato, indica la completezza, l'armonia, l'essere completi. Quindi essere in pace vuol dire creare armonia tra le diverse contraddizioni che sono dentro di noi, e creare armonia tra le diverse contraddizioni e tra le diversità che vediamo al di fuori di noi. Quindi è un concetto di pace, diciamo, un pochino più articolato, che indica un po' il tutto, la completezza, l'essere interi. E se dovessi chiederti di lanciare un brano musicale, mi diresti che cosa e perché? Beh, a questo punto, ecco, restiamo in tema e lanciamo appunto la canzone Salam di Sami Yusuf. There's no more hunger, no need for shelter. Isn't there enough to share? Or is it that we just don't care? We're here for a day or two. Let me show my way. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. alaykum. I pray for a day when there'll be justice and unity, when we put aside our differences. Fighting makes no sense, just a little faith to make it a better place. We're here for a day or two. E rieccoci sulle note di Salam di Sami Yusuf. Stiamo parlando con te su Liberi Dentro Edu Radio, il nostro programma ora in onda su Radio Città Fujiko e Teletricolore. Stiamo parlando del lemma Salam, che significa pace, fa parte del saluto, e nella lingua e nella cultura islamica. Ma Rosanna, mi viene in mente che comunque è comunque un saluto religioso. Questo è legato a persone che vivono e sperimentano la religione islamica tutti i giorni, no? Ma se ti chiedessi un saluto che si può rivolgere senza far riferimento al panorama religioso, quindi un saluto laico, che cosa potremmo utilizzare? Questo chiaramente dipende dai contesti, perché appunto essendo l'Islam una religione transnazionale, ecco, poi ogni contesto nazionale, ogni contesto culturale ha il suo saluto. Quindi ecco, Salam Aleikum è il saluto che ci è stato consigliato dal profeta Muhammad, e quindi per questo motivo tutti i musulmani di tutto il mondo utilizzano questo saluto quando si incontrano. Poi ognuno di loro utilizza il saluto del proprio paese, quindi semplicemente in italiano noi abbiamo buongiorno, buonasera, ciao, in Inghilterra avranno good morning, hello, eccetera, e quindi poi ecco il saluto laico di un musulmano dipende dal contesto in cui vive. Nella lingua araba esistono altri tipi di saluti, come può essere marhaba, che ha una radice, ecco, che vuol dire, che riporta un po' al concetto dell'accoglienza, ma ecco, ricordiamo anche che nei paesi arabi non ci vivono solo i musulmani, ma ci sono appunto anche ebrei e cristiani, e quindi sicuramente nelle interazioni di tutti i giorni c'è una negoziazione da questo punto di vista, anche se ecco, augurare la pace può essere anche, voglio dire, un augurio universale. Quindi capita anche a me, ma capita anche nei paesi arabi, che anche se non si è proprio musulmani, comunque poi si utilizza alla fine questo saluto, che è il saluto della maggioranza. Può capitare, ecco, che qualcuno travalichi questi confini della religione. E saluti meno formali, per esempio, noi in italiano diciamo ciao, che è una formula ormai internazionale, ma diciamo anche salve, che è una formula molto simile, anche questa bene augurante di buona salute, da salvere in latino, no? Ma esistono anche altre modalità di saluto a seconda dell'orario del giorno o della formalità in cui ci si trova? Beh, questo anche, ecco, dipende dal contesto. Cioè, se noi parliamo, ecco, di Islam, il saluto, ecco, islamico è questo. Poi nella lingua araba esistono i corrispettivi di buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, come esistono in tutte le altre lingue del mondo. Ma il fatto che Salam Aleikum resti in arabo è legato più alla funzione. Resta in arabo, anche se io sono italiana, io non dico che la pace sia su di voi, ma dico comunque Salam Aleikum è legato al fatto che l'arabo è la lingua del Corano e quindi ha una funzione sacra nella pratica islamica. Ricordavamo qualche puntata fa che la preghiera, per esempio, viene fatta in lingua araba in alcune delle sue parti, e quindi per questo come saluto islamico resta in arabo. Poi tutti gli altri saluti, ecco, sono i saluti della cultura e della lingua di ognuno. Allora facci un saluto, diciamo, generalista, come un ciao nella lingua, e poi io lancio il brano musicale. Nella lingua araba diciamo ma salama o ilalika. Perfetto, e allora io rilancio con Ciao di Lucio Dalla, e noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao Rosanna, ciao, a presto. Ciao, ciao. alto come un lampo mio, proprio in mezzo al cielo mio, che rabbrucco balto mio, viscio senza un pelo mio, la città sotto i rampresi, le luci del tramonto mio, la scia di un aereo mio, facevano più bello il mondo, per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane cossolari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, prima d'arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao. Ben ritrovati dopo le parole della nostra Rosanna Sirignano, esperta di dialogo interreligioso e in particolare di spiritualità islamica, quindi anche per essere vicini in questo momento a chi sta trascorrendo il periodo di Ramadan anche in carcere. Ci ridiamo appuntamento a domani, sempre su Lepida TV alle ore 13 e anche alle 13.30 con le rubriche a tema, ma anche su Teletricolore alle ore 10.30. Abbiamo vari orari questa volta, dato che ci siamo lanciati con Lepida e anche con Teletricolore e sempre su Radio Città Fujiko. E quindi oggi pomeriggio, ma tra poco, sempre su Lepida TV, ci sarà la rubrica a cura del Poggeschi, Ne vale la pena, la rubrica di giornalismo. E noi ci rivediamo sempre qui, sempre domani su Liberi Dentro. Vi ricordo di iscriverci, redazione liberidentro@gmail.com, oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. Grazie, buona giornata. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.